البلاد طردوا الأجداد. صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو. فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال. صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو. قالوا يا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا حتى نرجعها. صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو. قالوا القانون. Buongiorno Palestina. 155esima trasmissione su Radio Wombat. Già nel 2000 abbiamo avuto il piacere di avere ai nostri microfoni Francesca Albanese in occasione della presentazione del suo libro dal titolo La questione dei rifugiati palestinesi nel diritto internazionale, libro scritto insieme all'ex Tackenberg. Dal 2022 la dottoressa Francesca Albanese, giurista esperta di diritto internazionale e specializzata in diritti umani e Medio Oriente, è relatrice speciale alle Nazioni Unite ed è la prima donna a ricoprire questo ruolo. Spesso vittima di feroci attacchi mediatici nel corso della sua carriera, è oggi oggetto anche di pesanti sanzioni imposte dagli Stati Uniti dopo aver presentato il 5 luglio di quest'anno il suo ultimo rapporto sulla Palestina, dal titolo From Economy of Occupation to Economy of Genocide, dall'economia dell'occupazione all'economia del genocidio. Rapporto in cui sono analizzati i meccanismi aziendali che sostengono il progetto di colonialismo di insediamento israeliano teso ad eliminare, sfollare e sostituire la popolazione palestinese. Google, Microsoft, Amazon, Intel, IBM, BPER, Fineco, Mediobanca, BlackRock e la Leonardo Humanitarian Foundation sono solo alcuni nomi a cui fa riferimento il rapporto. Il senatore Giuseppe De Cristoforo ha promosso una conferenza stampa dal titolo L'impatto delle sanzioni USA sulla relatrice ONU Francesca Albanese. Conferenza stampa che si è tenuta nella sala Caduti di Nassiriya a Palazzo Madama giovedì 4 settembre alle ore 12. Trasmettiamo parte di questa conferenza in cui Francesca Albanese fa un quadro dettagliato delle conseguenze di queste sanzioni che ledono pesantemente la sua persona, la libertà di movimento, i suoi familiari e la sua posizione economica nell'ambito della sua attività di relatrice speciale per i territori occupati. Nella conferenza stampa si affrontano anche i ruoli dell'ONU, del governo italiano e del sistema bancario. Le sanzioni alla relatrice speciale dell'ONU rientrano a pieno titolo nell'aggressione alla Corte Penale Internazionale che gli USA vogliono paralizzare. Yeah. Ascolterete prima una breve rassegna stampa a cura di Manuela. Sarà una selezione di 3 articoli di Invicta Palestina, seguiti da un breve stacco musicale. 3 settembre 2025, da Invicta Palestina. L'articolo "Chiamatelo Cubo Rosso" è intriso del sangue dei palestinesi, di Angela Mori. Per alcuni giorni a Firenze ha tenuto banco tra i cittadini, i rappresentanti politici e delle istituzioni, nei vari media mainstream, il dibattito sull'edificio costruito al posto del vecchio teatro comunale, in quell'area particolare che è il centro storico e pertanto sottoposta a vincoli architettonici e urbanistici che pare non siano stati abbastanza stringenti, tanto da aver permesso la costruzione di un complesso residenziale con 156 appartamenti di lusso con caratteristiche estetiche molto discutibili. Dopo un susseguirsi di progetti a vario titolo bocciati e poi approvati dalle varie amministrazioni competenti, sono arrivati nel 2020 alla vendita alle società Heinz e Blue Noble. Ed è proprio su questa operazione che vorrei soffermarmi, mentre tutto il dibattito in corso è concentrato sullo scempio che questo edificio ha determinato nel contesto urbanistico, con quelle estese vetrate nere che di fatto stravolgono lo skyline di Firenze, tanto da essere ormai definito il cubo nero. Che cosa ha di particolare la società Heinz che ha acquistato l'immobile? I suoi legami con Israele e con quello che da Francesca Albanese è stato definito economia del genocidio. Nel 2021 la società immobiliare internazionale Heinz ha raccolto 108 milioni di dollari da investitori israeliani per uno dei suoi principali fondi europei, l'Heinz European Value Fund 2, e Menora Mictakin, una delle più grandi compagnie assicurative israeliane che gestisce il più grande fondo pensioni del paese, ha investito ben 88 milioni di dollari in questo fondo. Menora Mivtakin, insieme ad altre compagnie assicurative israeliane, è complice del finanziamento della costruzione delle colonie, dello sfruttamento delle risorse naturali occupate e del complesso militare e industriale di Israele, sia direttamente sia attraverso le loro partecipazioni in altre società complici. Nello specifico, Menora Mivtakin finanzia le società edili israeliane con la realizzazione di progetti immobiliari negli insediamenti del Golan siriano e nella Cisgiordania occupata e detiene i diritti sui terreni e sui progetti come garanzia. Quello che a Firenze ormai viene chiamato il cubo nero è stato realizzato da una società legata all'occupazione israeliana nella Palestina e al genocidio in corso. D'ora in poi chiamiamolo Cubo Rosso, è intriso del sangue dei palestinesi. "9 settembre 2025", un articolo di Invicta Palestina dal titolo "Perché Israele teme le flottiglie di Gaza" di Ramzi Barood. Il ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, ministro estremista, ha dichiarato in modo minaccioso che tutti i volontari della flottiglia sono terroristi, promettendo che saranno trattati come tali. Per comprendere il significato agghiacciante del trattare gli attivisti non violenti come terroristi, bisogna considerare una recente inchiesta del quotidiano The Guardian. Il rapporto ha rivelato che tutti i 6.000 palestinesi detenuti a Gaza durante i primi 19 mesi del genocidio erano detenuti in base a una legge che li classifica come combattenti illegali, quindi terroristi per gli israeliani, consentendo la detenzione a tempo indeterminato. Questa inchiesta ha rivelato che la stragrande maggioranza delle persone incarcerate da Israele sono in realtà civili, tra cui operatori sanitari, insegnanti, giornalisti, funzionari pubblici e bambini. Il fatto che Israele estenda la stessa drastica definizione agli attivisti internazionali sottolinea con forza il valore politico e strategico di queste missioni agli occhi di Israele. Quando la prima nave solidale inviata dal movimento Gaza Libera raggiunse Gaza nel 2008, Israele si infuriò. Nel 2010 la risposta di Tel Aviv alla Gaza Freedom Flotilla, la flottiglia della libertà per Gaza, che includeva la nave Mavi Marmara, fu letale. Le forze speciali israeliane uccisero 10 attivisti. Israele non avrebbe tollerato alcuna interferenza. Da allora, trattare gli attivisti come criminali è diventata una prassi consolidata, rafforzata dal fatto che nessun israeliano è mai stato ritenuto responsabile per l'oltraggiosa violenza contro i civili. Questo tuttavia non ha scoraggiato gli attivisti solidali che hanno tentato di salpare più e più volte nel 2011, nel 2015 e nel 2018. La scarsa frequenza di queste missioni non è dovuta a una mancanza di interesse, ma piuttosto al fatto che alcuni paesi europei, in coordinamento con Israele, hanno fatto tutto il possibile per impedire agli attivisti. Questa dinamica è cambiata radicalmente con l'attuale genocidio. La solidarietà con i palestinesi di Gaza è cresciuta e ora domina molte società europee, ottenendo infine il sostegno di diversi governi, tra cui la Spagna. Le flottiglie di solidarietà sono quindi una potente espressione di quanto la società civile sia disposta a spingersi per svolgere il lavoro che dovrebbe essere responsabilità dei governanti e delle istituzioni internazionali, come dichiarato anche da Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite. Sebbene in ultima analisi siano il popolo palestinese e la sua sumud, la sua fermezza e la sua resilienza a sconfiggere lo stratagemma israeliano, non bisogna sottovalutare il ruolo cruciale della solidarietà internazionale. Le flottiglie della libertà non sono azioni isolate da giudicare in base alla loro capacità di raggiungere Gaza, sono invece una parte vitale di un intricato processo globale che porterà infine al profondo isolamento di Israele sulla scena internazionale, un processo che è già iniziato. Traduzione dell'articolo a cura di Beniamino Rocchetti. 11 settembre 2025, da Invicta Palestina. La coscienza di facciata, l'ipocrisia di The Voice of Hind Rajab, di Mohammad Akib. Di recente, un film su Hind Rajab, la bambina palestinese massacrata senza pietà dall'esercito israeliano, è stato presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia e ha ricevuto una lunga standing ovation. L'immagine della sua storia messa in scena per il pubblico internazionale è stata celebrata come un momento di consapevolezza. Eppure, viene da chiedersi, cosa c'è da sensibilizzare a questo punto? Ogni singolo essere umano connesso ai media sa che cosa sta succedendo a Gaza. La difficile situazione dei palestinesi non è nascosta, viene trasmessa ogni giorno in tempo reale, in streaming dalle macerie delle case bombardate, dalle rovine degli ospedali e dalle tende delle famiglie sfollate. Tutti lo sanno, eppure nulla cambia. Ecco perché la voce di Hind Rajab sembra meno un attacco di solidarietà e più un vuoto simbolo di guadagno capitalista. È la storia di oggi, di adesso, di questo preciso momento. Bambini come lei vengono ancora martirizzati e famiglie come la sua vengono completamente annientate. Milioni di persone muoiono ancora di fame a Gaza, sta attraversando una carestia provocata dall'uomo, mentre cibo e medicine vengono deliberatamente negati. Trasformare tutto questo in uno spettacolo da festival, applaudito da un pubblico che poi tornerà a bere vino, a sosseggiare sugli yacht con gli addetti ai lavori, è grottesco. Questo schema di ipocrisia occidentale non è nuovo. Durante il genocidio di ruandese, l'Occidente e le Nazioni Unite sono rimaste a guardare senza fare nulla, mentre migliaia di cadaveri si accumulavano ogni giorno. Questo film rischia di ripetere lo stesso vuoto simbolismo. La lunga stand innovation cinematografica non ha aiutato in alcun modo i palestinesi, non ha rotto il blocco, non ha sfamato bambini affamati e non è riuscita a fermare le bombe. Ha tuttavia generato applausi a Venezia e forse profitti sul mercato cinematografico mondiale. La società di produzione di Bud Pitt, Plan B, che ha finanziato il film, è detenuta per la maggior parte da MidaOne, una società di private equity francese da miliardi di dollari con legami con azionisti sionisti. Il commentatore turco-americano Hasan Piker ha catturato l'assurdità con una tagliente analogia su X. Ha affermato che guardare questo film ora è come dei registi socialisti tedeschi che giravano un film su Auschwitz mentre le camere a gas sono ancora in funzione. Il paragone può essere sgradevole, ma è proprio il disagio a rivelarne l'ipocrisia. L'arte ha il suo ruolo nel documentare la storia, ma quando l'atrocità è in corso, quando le camere a gas sono ancora in funzione, tali gesti non liberano, ma anestetizzano. L'arte ha sempre avuto un duplice ruolo: può esporre, sfidare, ispirare all'azione, può anche distrarre, mercificare e pacificare. Nel caso del film di Hind Rajab, la bilancia pende fortemente verso quest'ultimo. Ciò che emerge non è consapevolezza, poiché la consapevolezza satura già la sfera mediatica globale, ma uno spettacolo di sofferenza accuratamente curato, tradotto in capitale culturale. Lo stesso applauso diventa un segno di sicurezza morale, consentendo agli spettatori di affermare la propria umanità, mentre le condizioni di disumanità rimangono immutate. Traduzione a cura di Grazia Parolari. الصوت العالي بدي أقول بس الصوت صغير إن كان نحن أولاد صغار بس صرختنا من القلب بدنا نمحي كل الخوف ونكون التغيير بأعلى صوت Passiamo ora alla conferenza stampa del 4 settembre a Palazzo Madama, organizzata dal senatore Giuseppe De Cristofaro, che ha visto la presenza di Francesca Albanese con gli interventi di Nazareno Gabrielli, direttore di Banca Etica, Duccio Facchini, direttore di Altra Economia, Domenico Gallo, ex magistrato della Corte di Cassazione, Stefania Ascari, deputata 5 Stelle. Le sanzioni contro Francesca Albanese sono state annunciate mercoledì 9 luglio dal segretario di Stato Marco Rubio, su ordine esecutivo del presidente Trump. La dottoressa Albanese è stata sanzionata in quanto inserita come relatrice particolare nell'ambito dell'applicazione delle sanzioni decretate contro la Corte Penale Internazionale da parte degli Stati Uniti per aver sostenuto l'apertura di un'inchiesta contro Benjamin Netanyahu. Come lei stessa ha dichiarato, si è trattato di una chiara violazione della Convenzione ONU sulle immunità che proteggono i funzionari delle Nazioni Unite, compresi gli indipendenti, nell'esercizio delle loro funzioni. Ai quali darò la parola dopo di me, lo farò naturalmente a partire da Francesca Albanese, e la ragione per cui abbiamo organizzato questa conferenza stampa è ancora una volta denunciare questa cosa davvero surreale, se posso dire così, che sta accadendo in queste settimane e in questi mesi, l'impatto di queste gravissime sanzioni che sono state comminate nei confronti della dottoressa Albanese, credo tra l'altro anche in maniera inedita rispetto al passato. Abbiamo già, come ricorderete, proprio in questa sala, la sala Nassiria del Senato, qualche mese fa avuto modo di discutere di questo e di denunciare quella che ci sembrava e quella che è una totale inerzia del governo italiano anche rispetto a questa questione, e io penso che questa cosa vada ribadita con grande forza. Io dirò solo questo, perché poi lascio la parola agli altri relatori, che entreranno nel merito naturalmente anche di quello che si potrà fare nel corso dei prossimi giorni e delle prossime settimane, e che ci spiegheranno anche cosa significano queste sanzioni. Dirò semplicemente che trovo davvero vergognoso che il governo italiano non stia battendo ciglio dinanzi al fatto che una nostra connazionale, una cittadina italiana che ha un incarico di altissima responsabilità e che sta subendo un provvedimento come questo, non venga per l'appunto tutelata dal nostro paese e dal nostro governo. E quindi da questa sala ancora una volta chiedo al governo italiano, alle istituzioni italiane, di tutelare fino in fondo Francesca Albanese, di tutelare la sua funzione politica oltre che la sua persona e la sua funzione politica, ovviamente, perché penso che quello che sta accadendo davvero rappresenti un precedente pericolosissimo e davvero abbia a che fare con una gravità probabilmente inedita nella storia di questo paese, e credo che vada denunciata con grande forza. Allora, dottoressa Albanese, passerei direttamente la parola a lei e poi continuiamo con gli interventi. Grazie. Buongiorno a tutte e tutti, e ringrazio l'intergruppo per la Palestina e Israele per l'invito rivoltomi e ospitarmi e ospitarci oggi. Per me è un grandissimo valore. Vi ringrazio, ringrazio i senatori che sono qui presenti, il senatore e i deputati qui presenti, il senatore De Cristofaro, insomma, per aver cominciato e dandomi l'opportunità di spiegare che cosa è successo. Allora, io vorrei inquadrare i fatti, e i fatti non si possono spiegare senza fare riferimento a dei provvedimenti che sono stati emessi dal governo, dall'amministrazione americana. Nel febbraio del 2025 l'amministrazione Trump ha emesso un ordine esecutivo, il 14203, con il quale l'amministrazione americana ha imposto delle sanzioni alla Corte Penale Internazionale a seguito dell'inchiesta nei confronti di due leader politici israeliani, tra cui l'attuale primo ministro Benjamin Netanyahu e l'ex ministro della difesa Yoav Gallant. Ecco, la Corte Penale Internazionale, secondo l'amministrazione americana, ha commesso un illecito investigando, facendo un'inchiesta su leader politici israeliani, mettendo in pericolo, creando una situazione d'emergenza, dice l'amministrazione americana, per gli Stati Uniti stessi. Appunto, già questo è un provvedimento che si commenta da solo, è assurdo. Come può la Corte Penale Internazionale, il cui compito è assicurare la giustizia, prevenire e punire crimini di guerra, crimini contro l'umanità, tra cui l'apartheid, il crimine di genocidio e dell'aggressione, come può l'esecuzione della giustizia mettere in pericolo un'amministrazione politica, un intero paese? Bene, questo ordine esecutivo è fondamentale perché i provvedimenti che sono stati presi nei miei riguardi il 9 luglio a mezzo di un comunicato del segretario di Stato americano Marco Rubio estendono le misure sanzionatorie nei confronti della Corte, di cui parlerò tra un attimo, nei miei confronti. La tempistica è interessante. Perché il 9 luglio? Tecnicamente io sono accusata di aver cooperato con la Corte Penale Internazionale, che è una cosa che fanno tutti i relatori speciali che operano in contesti in cui ci siano accuse formulate contro esponenti di governo o altri di crimini previsti dallo Statuto di Roma. In realtà, per questo vi dico la tempistica è interessante, il 9 luglio erano trascorsi 6 giorni dalla presentazione del mio ultimo rapporto, quello per cui in una lettera che poi è stata diffusa, in una lettera inizialmente privata al segretario generale, io venivo accusata, a causa dell'inchiesta che ho fatto sul settore privato, le implicazioni dello stesso nell'economia dell'occupazione israeliana, che poi si è trasformata negli ultimi 2 anni in economia di genocidio, e di questo ho già parlato in questa sede, venivo accusata di essere una minaccia per l'economia globale. Già nel maggio del 2025 un'altra branca dell'amministrazione americana mi aveva messo in mora, dissuadendomi dal continuare quell'inchiesta che stavo ancora conducendo, perché stavo, cito testualmente, terrorizzando le imprese americane. Stiamo parlando delle big tech, Google, Microsoft o le grandi compagnie petrolifere come la Drummond o la Chevron, che non è americana, ma di questo stiamo parlando. Quindi il lavoro di un funzionario indipendente, di un esperto tecnico delle Nazioni Unite, crea una minaccia all'economia globale. Senza scendere nel merito di queste accuse, cosa significano le sanzioni? Le sanzioni costituiscono un impedimento alla libertà di movimento, che nel mio caso è tanto più importante perché io devo rendermi negli Stati Uniti per presentare uno dei miei rapporti annuali, l'altro ve lo presento a Ginevra al Consiglio dei Diritti Umani, e mi è stato ritirato il visto. Ma soprattutto ci sono delle misure sanzionatorie nei confronti della mia persona e nei confronti della mia persona sono misure finanziarie, cioè il congelamento di tutto ciò che è il mio possesso, qui parleremo del conto bancario, e delle misure che vanno poi a danneggiare, e questa è un'altra parte fondamentale di cui non parleremo oggi, ma dovete capire la gravità di queste sanzioni, che fanno sì che ci siano sanzioni personali e pecuniarie per qualsiasi persona americana, any US person, e può essere un cittadino americano, una persona che ha residenza negli Stati Uniti o una persona che ha proprietà o interessi, lavoro negli Stati Uniti. Bene, queste persone sono soggette a pene pecuniarie fino ad 1 miliardo e 20 anni di carcere se si prova che c'è uno scambio economico anche in natura nei miei confronti. Io sono la madre di una cittadina americana e mio marito lavora per un'organizzazione che è negli Stati Uniti, quindi capite che mi colpiscono al cuore in questo momento. Mia figlia tecnicamente è passibile di arresto e di pene pecuniarie fino ad 1 miliardo per aver preparato, per avermi preparato un caffè o per aver preso la mia colazione. Ecco, siamo a questo, in questa situazione di stallo. Ma la cosa di cui dobbiamo parlare oggi, e che ci tengo veramente che si capisca, perché noi non esistiamo senza delle transazioni finanziarie. Io in questo momento non ho la possibilità di aprire un conto corrente. Avevo un conto bancario negli Stati Uniti che è stato chiuso, ma non posso aprire un conto neanche in un altro paese, neanche in Italia, a causa delle sanzioni americane. E questa è la cosa su cui dobbiamo riflettere. Se le sanzioni mi fossero state comminate dall'Australia, non avrebbero un impatto sulle banche italiane, mentre le sanzioni americane sì. E l'ultimo punto, e poi su questo concludo, chiaramente si è prodotto il gelo attorno a me, nei miei riguardi. Io collaboravo con università americane, con docenti, con organizzazioni non governative. Nessuno si fida più della relazione con me, ma non perché non mi sostengano, ma perché in questo momento l'amministrazione americana è in uno stato tale di minaccia nei confronti di tutti che nessuno si sente al sicuro. E questo succede quando la libertà è già stata erosa. Quindi ci troviamo in questa situazione dalla quale è necessario che io esca, e siccome le sanzioni sono una violazione dell'articolo 105 della Carta delle Nazioni Unite, dell'articolo 6 della Convenzione sulla protezione dei funzionari internazionali, protezione dei funzionari internazionali ed esperti tecnici in missione, cioè la Convenzione sui privilegi e le immunità dei funzionari internazionali. Chiaramente l'organizzazione principe che deve difendermi sono gli Stati Uniti, le Nazioni Unite. Il problema è che le Nazioni Unite in questo momento sono il mirino. L'attacco a me non è soltanto un attacco a me, è un attacco nei confronti delle Nazioni Unite, ed è per questo che servono i governi. Il mio innanzitutto, quale che sia poi l'accoglimento delle mie tesi, del mio lavoro dal punto di vista meritorio, e sono veramente felice che ci sia un ex magistrato del prestigio di Domenico Gallo, perché ci sono delle misure legali che vanno prese e sono felice che sarà lui ad illustrarle. Grazie mille. Passiamo ora all'intervento di Nazareno Gabrielli, direttore di Banca Etica, che ci spiega perché non può aprire un conto corrente alla cittadina italiana Francesca Albanese. Ascoltiamo Nazareno Gabrielli. Davvero buongiorno a tutti, per me è un onore rappresentare Banca Etica qui oggi. Banca Etica ha ricevuto nei mesi scorsi la richiesta della dottoressa Francesca Albanese di aprire un conto corrente. Abbiamo accolto questa domanda con la volontà e il desiderio di poter offrire i nostri servizi a una persona che stimiamo e che svolge un incarico delicato e prezioso su mandato delle Nazioni Unite a difesa dei diritti umani. Nel corso delle verifiche necessarie, previste dalla normativa italiana ed europea in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento al terrorismo, è emerso che la dottoressa Albanese risulta inserita nelle liste sanzionatorie statunitensi, in particolare la SDN list dell'OFAC. La normativa nazionale, in particolare il decreto legislativo 109 del 2007, che recepisce i regolamenti comunitari, impone alle banche di controllare che i dati identificativi dei clienti non coincidano con quelli presenti nelle liste di soggetti sanzionati. In caso di corrispondenza, come nel caso in questione, scatta un alert bloccante per il rischio che la banca riceva gravi sanzioni in caso di apertura del conto corrente. Le liste OFAC, pur essendo emanate da un organismo statunitense, condizionano l'intero sistema finanziario globale. Le banche europee, che non le rispettano, possono essere colpite da sanzioni secondarie che comportano l'impossibilità di operare in dollari, l'esclusione dai circuiti internazionali di pagamento, buongiorno, e persino sanzioni pecuniarie in importi sostenibili, insostenibili anzi. Di fronte a questo quadro non abbiamo avuto margini di scelta. Aprire un conto corrente intestato alla dottoressa Albanese, finché sarà inserita nella lista delle persone segnalate, esporrebbe Banca Etica al rischio di veder compromessa la propria operatività internazionale. con conseguenze drammatiche per tutti i nostri soci e clienti. Quindi il non aprire un conto corrente è stata una decisione sofferta, ma in qualche modo obbligata, presa eccezionalmente anche col coinvolgimento diretto del Consiglio di amministrazione della banca. Una scelta che non rappresenta in alcun modo un giudizio sulla persona o sul suo operato, ma è l'effetto di vincoli normativi e procedurali che si impongono a tutte le banche. Siamo consapevoli della gravità di questa situazione. Quando strumenti pensati per colpire attività criminali o terroristiche finiscono per impedire a una rappresentante delle Nazioni Unite di esercitare diritti elementari, come aprire un conto corrente, si crea una distorsione che mette in discussione i principi stessi di giustizia e di libertà. Banca Etica continuerà nel proprio ruolo a richiamare l'attenzione delle istituzioni su questi limiti, perché crediamo che il sistema finanziario non possa trasformarsi in un meccanismo di esclusione finanziaria ingiustificata. Concludo rinnovando alla dottoressa Albanese la nostra solidarietà e la nostra stima per il suo lavoro a favore della pace per il popolo palestinese, e auspicando che le istituzioni possano contribuire a rimuovere quanto prima un'ingiustizia che la riguarda direttamente, ma che riguarda anche il corretto funzionamento della democrazia e del diritto internazionale. Grazie. Grazie, allora io passerei la parola adesso. Duccio Facchini, direttore di Altra Economia, spiega l'importanza del ruolo dei media italiani e della stampa, che sembrano non voler cogliere l'abnorme importanza di queste sanzioni e lo scenario che aprono sulla finanza, sulle banche e altre aziende. Ascoltiamo il suo breve ma incisivo intervento. Gabrielli, confesso così a titolo personale, ma credo di interpretare anche un po' di facce che ho visto in questa sala, così che non è semplice prendere la parola facendo anche un mestiere come quello di giornalista, che come tanti colleghi lavora e ha lavorato grazie alle iniziative della relatrice Albanese. Confesso veramente disagio di fronte a questa, che è un fatto enorme dal punto di vista giornalistico, cioè mi sento, nei pochi minuti che ho a disposizione, per quello che può valere l'appello del sottoscritto, però di interpellare la coscienza delle operatrici e degli operatori dell'informazione del nostro paese, perché se non è una notizia abnorme quella che abbiamo in pochi minuti poco fa ascoltato, questa quale deve esserla? E veramente l'indignazione popolare, che poi può anche comportare, si spera, non sempre, pensiamo ai fatti della flotilla, a un risveglio di governi nella migliore delle ipotesi distratti o assopiti, per non pensare complici e conniventi, però l'indignazione popolare nasce, scocca, se l'informazione fa il suo mestiere, se l'informazione dà la centralità, la priorità, la sottolineatura che merita questo fatto, che non può essere una notizia alla pagina 8 in un box o trasformata in una schermaglia di natura politica. Non voglio sembrare saccente sotto il profilo deontologico, però davvero la situazione interroga la nostra professione di giornalisti e di giornaliste in questo momento, profondamente. Detto questo, che deriva da quello che è stato detto, io volevo spendere due parole, lo ha già fatto il direttore Gabrielli, dal punto di vista del tecnicismo apparente, che poi è un enorme fatto politico legato all'OFAC e alla normativa del 2007 che è stata evocata, però a proposito di condizionamenti e interessenze tra il sistema finanziario degli Stati Uniti e anche il sistema bancario del nostro paese, ritornare rapidamente a quel comunicato stampa che veniva ricordato di Marco Rubio del 9 luglio, invito chi non l'avesse fatto a leggerselo, perché non è neanche una pagina, in cui include la relatrice Albanese all'interno di quell'ordine esecutivo distopico del febbraio di quest'anno del presidente Trump. Tra le ragioni che il segretario di Stato americano elenca che avrebbero giustificato l'iniziativa, di cui poi ci dirà il senatore Gallo, dell'inclusione delle sanzioni nei confronti di Albanese, c'è anche questa presunta escalation di minacce rivolte dalla relatrice Albanese nei confronti del sistema economico e finanziario statunitense. Il primo ambito che viene citato da Rubio è proprio l'ambito finanziario, ed è evidente la correlazione con quello che la relatrice albanese ha riportato all'interno del proprio rapporto che veniva prima evocato, dall'economia dell'occupazione all'economia del genocidio. A pagina 20 di questo rapporto, che anche qui invito tutti gli operatori della stampa a diffonderlo e a renderlo pubblico se già non è stato fatto abbastanza, però si occupa del settore finanziario che sta dietro alla occupazione, allo stato di occupazione di apartheid in Israele, di soggetti che pur dichiarano di rispettare i principi di responsabilità sociale negli investimenti sanciti dal Global Compact delle Nazioni Unite. Riflette e sottolinea anche qui, in qualche modo amplificando fatti noti, cioè anche questo chiamare la relatrice a rispondere in questo termine è particolarmente, come dire, infame, avendo in realtà dato megafono a qualcosa che era già di pubblico dominio, però riflette sul tema, ad esempio, dei titoli di Stato emessi dal governo israeliano, dallo Stato israeliano, chi li detiene, chi li ha detenuti, quali sono i soggetti e le banche che hanno garantito liquidità al governo israeliano, e fa i nomi BNP Paribas, Barclays, per citare i principali, fino ad arrivare a BlackRock, che come sapete è uno dei principali gestori di patrimonio il principale gestore di patrimonio a livello mondiale. Bene, su BlackRock vale la pena ricordare da un lato quello che c'è scritto nel rapporto, cioè che è il secondo principale investitore all'interno di Palantir, che conoscete, un soggetto gravemente coinvolto anche nel genocidio in corso nella striscia di Gaza, ma anche in Microsoft, oggetto del rapporto albanese, Alphabet, Lockheed Martin, Caterpillar. E poi però qui, e concludo, arriviamo all'altro tema enorme che riguarda il nostro paese, e cioè, se dobbiamo parlare di interessenze, il ruolo di BlackRock quale azionista rilevante all'interno delle principali banche del nostro paese, perché questo tema si tiene indirettamente con quello che anche prima riassumeva il direttore generale di Banca Etica a proposito di quanto è fondamentale e centrale la finanza etica e la riflessione sulla finanza etica all'interno del nostro paese. Bene, BlackRock ha il 5,005% di Intesa San Paolo, dati di oggi della Consob, delle quotate, Unicredit al 5,120, BPM al 5,036, Biper, notizia di queste ore, ha superato il 5% col 5,052, Fineco al 9,2%, Mediobanca, stando al sito di Mediobanca, e quindi non compare in Consob perché è sotto il 5%, al 3,5%, tacendo, ma neanche troppo, il fatto che BlackRock, su ok del governo italiano, dal settembre dello scorso anno, ha iniziato a rosicchiare anche un 3% del capitale di Leonardo S.p.A., che in altre sedi, non mi dilungo, a proposito del genocidio e delle esportazioni di armi italiane in Israele, è un soggetto che fa parte di questa riflessione. Quindi, ritornando e in conclusione al tema dell'indignazione popolare che passa dall'informazione, passa anche un'indignazione che va a scuotere non solo il ceto politico, i governi, ma va a scuotere anche le imprese, va a scuotere anche la nostra banca, se vogliamo davvero reagire a questo quadro profondamente inquietante che emerge anche questa mattina. Grazie. This song was written for a very brave man. A man who preached non-violence in a state which has racism enshrined in its constitution. A man who was imprisoned, tortured, and killed in a jail in South Africa. This is for Stephen Biko. Thank you. Passiamo ora all'intervento di Domenico Gallo, ex magistrato di Cassazione. Parola a Domenico Gallo. Buongiorno a tutti, grazie, vi ringrazio dell'invito e devo dire che mi ha fatto un po' arrossire, mi hanno fatto arrossire le parole di Francesco Albanese. Comunque entro subito nell'argomento. Nazareno Gabrielli ci ha spiegato gli effetti paradossali che si verificano in Italia come in tutta Europa a seguito di questi provvedimenti adottati dall'amministrazione americana. Tutto nasce da un ordine esecutivo, che insomma è una specie di legge del governo, un ordine esecutivo emanato dal presidente Trump il 6 febbraio del 2025. Questo ordine ha l'obiettivo di punire la Corte Penale Internazionale per aver intrapreso delle indagini sui delitti commessi da Israele e in passato anche su quelli degli Stati Uniti nell'Afghanistan. Sembra, può essere, diciamo così, se non fosse tragico sarebbe ridicolo. In quest'ordine Trump dice che Stati Uniti e Israele sono entrambi democrazie fiorenti, con forze armate che rispettano rigorosamente le leggi di guerra. Peccato che non si può dimostrare il contrario, perché si viene sanzionati. Ora, questo provvedimento è un attacco alla Corte Penale Internazionale che mira a impedirne il funzionamento. Nel provvedimento viene delegato il segretario di Stato ad individuare ulteriori soggetti da sanzionare e in base a questa delega il 9 luglio Marco Rubio ha ordinato di sanzionare Francesca Albanese vomitandole una serie di ingiurie e accuse assurde nel comunicato che ha emesso. E in seguito a questo ordine di Rubio è stato emesso un provvedimento dall'OFAC, che è questo ufficio che si interessa del controllo delle finanze straniere, e in questo provvedimento ha messo al bando Francesca Albanese creando questa situazione per cui sono congelati tutti i suoi beni, non può ricevere donazioni, non può ricevere contributi o stipendi o altro da chi che sia. Il problema è questo provvedimento ha una base legale, può avere un qualche valore nell'Unione Europea? No, chiaramente no, perché non fa parte, diciamo così, degli accordi che riguardano la collaborazione internazionale per contrastare il terrorismo o l'uso dei sistemi finanziari per fini di terrorismo, e in ogni caso viola dei diritti umani fondamentali. Quindi non solo, ma costituisce una sorta di colpo di Stato internazionale, è un atto eversivo perché ha l'oggetto, lo scopo di cancellare il ruolo della Corte Penale Internazionale e quindi che è un organo di garanzia dell'attuazione delle convenzioni internazionali sui diritti umani e quindi scardina l'ordinamento internazionale. Quindi è profondamente illegale quest'ordine e non dovrebbe avere nessun valore nell'ordinamento dell'Unione Europea. Ora, è da lungo tempo che negli Stati Uniti si emettono provvedimenti destinati a avere un valore extraterritoriale, efficacia extraterritoriale. E, è avvenuto con Cuba, sanzioni a Cuba, all'Iran, alla Libia, e l'Unione Europea ha avuto il problema di reagire a, diciamo così, gli effetti extraterritoriali di questi provvedimenti emessi dall'amministrazione americana, e nel 96, che ritiene, l'Unione Europea ritiene che provvedimenti extraterritoriali siano contrari al diritto internazionale, comunque non possono interferire con i diritti, i doveri e le aspettative giuridiche riconosciute dall'ordinamento europeo. Per questo nel 96 è stato emesso un regolamento che si chiama regolamento di blocco, che dovrebbe servire, l'intenzione con cui è stato emesso, a bloccare gli effetti extraterritoriali di provvedimenti adottati da stati terzi. Si dice stati terzi, ma in realtà un solo Stato fa cose del genere. Quali sono i provvedimenti che devono essere bloccati? Sono indicati in un allegato che è appunto allegato al regolamento, agli articoli del regolamento. Il regolamento prevede come si bloccano questi effetti extraterritoriali, e in un modo semplice, ma forse troppo semplice, cioè il regolamento ordina ai soggetti europei di non obbedire a queste prescrizioni extraterritoriali. Quindi se Trump ordina alle banche europee di non fare finanziamenti, di non esportare in Iran, l'Europa dice no, noi vi ordiniamo di non rispettare quest'ordine che avete ricevuto dagli Stati Uniti. Insomma, una sorta di braccio di ferro, però l'effetto è relativo di questo braccio di ferro. Comunque il problema si è riproposto adesso, questo regolamento è stato aggiornato nel 2018 per includere delle norme, delle nuove sanzioni americane messe nel 2012 contro l'Iran, e poi non è stato più riaggiornato. Ora, quando sono state emesse le sanzioni contro la Corte Penale Internazionale e le sanzioni emesse a danno di Francesco Albanese rientrano, hanno la stessa base giuridica delle sanzioni emesse contro la Corte Penale Internazionale, a parole, a chiacchiere, l'Europa ha detto di essere contraria, l'hanno detto sia la von der Leyen, sia Kaya Kallas, sia Costa, il Presidente del Consiglio Europeo, a parole. E devo dire che c'è stata una presa di posizione di 79 stati partecipanti allo Statuto di Roma, che condannava drasticamente, diciamo così, e dichiarava illegale questo provvedimento dell'amministrazione americana. E dobbiamo prendere atto che fra questi 79 stati non ci sono i tre governi europei, diciamo così, peggiori, cioè l'Italia, la Repubblica Ceca e l'Ungheria, i tre governi canaglia, diciamo così, dell'Unione Europea, che non hanno proferito verbo. Ora, le sanzioni alla Corte Penale Internazionale il 6 febbraio riguardavano soltanto il procuratore Karim Khan, poi si sono estese e attualmente colpiscono 9 giudici e pubblici ministeri della Corte Penale Internazionale e più Francesca Albanese. Quindi il caso è diventato politicamente veramente esplosivo. Sembra che il governo dei Paesi Bassi, il governo olandese, abbia chiesto alla Commissione di inserire quest'ordine di Trump e i suoi derivati nell'allegato al regolamento di blocco. Cioè chiede che l'Unione Europea blocchi dichiari bloccato gli effetti di questi atti eversivi nei confronti della Corte Penale Internazionale e dell'ONU per il ruolo che svolge Francesca Albanese. Però per adesso non sappiamo nulla, quindi silenzio assoluto. Bisogna dire anche che è stata, diciamo, interpellata Kaja Kallas e ha risposto: stiamo valutando, stiamo vedendo, studieremo la situazione, eccetera. Quindi c'è questo scandalo internazionale che l'Unione Europea non vuole reagire a un atto di prepotenza che mira a distruggere la Corte Penale Internazionale e a fare un'eversione dell'ordinamento internazionale. Un'ultima cosa, questo problema delle sanzioni e del rispetto dei diritti umani fondamentali si è posto quando sono state messe delle sanzioni in Europa in adempimento di una lista fatta dal Consiglio di sicurezza di presunti terroristi. Uno di questi presunti terroristi ha fatto causa all'Europa per il regolamento in cui l'aveva incluso bloccandogli tutti i beni. C'è una sentenza importantissima della Grande Chambre, della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che dice no. Anche se la fonte originaria è legittima, i regolamenti europei devono rispettare i diritti umani fondamentali. Il diritto umano fondamentale è quello alla difesa, che deve essere effettiva. E quindi c'è un controlimite, diciamo così, anche alle obbligazioni che vengono dall'esterno. Quindi ci sono due strade. C'è la strada che Francesca e i giudici, diciamo così, della Corte possono rivolgersi ai giudici europei invocando il caso Cadi, che è un'autostrada dal punto di vista del diritto, e poi c'è la strada più strutturata, che bisogna intervenire sull'Unione Europea per chiedere che venga risolto questo scandalo dell'accettazione di queste sanzioni eversive, e quindi chiedere che faccia il suo dovere, la Commissione inserisca nell'allegato del regolamento di blocco anche questi orribili provvedimenti di Trump. Grazie. Per concludere, trasmettiamo parte dell'intervento di Stefania Ascari alla conferenza. La sua presenza qui, tutti i relatori, le relatrici, le persone qui presenti. È passato più di un mese da quando abbiamo avuto la possibilità, dentro le istituzioni italiane, di poter parlare del rapporto di Francesca Albanese, e da questo mese, insomma, non è arrivata nessuna comunicazione da parte del governo italiano per quanto riguarda anche un semplice messaggio di solidarietà nei confronti di una nostra concittadina italiana, relatrice speciale ONU per i territori palestinesi occupati, che è bersaglio dell'amministrazione Trump solo per aver fatto il suo lavoro fino in fondo. Ha fatto semplicemente il suo lavoro, ha detto la verità, ha fatto il lavoro che le Nazioni Unite le hanno affidato: monitorare il rispetto dei diritti umani del popolo palestinese. Il problema è che il rispetto dei diritti umani, la dottoressa Francesca Albanese l'ha sempre scritto, non c'è mai stato. Perché questo governo terrorista non considera i palestinesi come esseri umani, non l'ha mai considerati. Anche perché io mi ricordo nel 2018, quando sono stata la prima volta in Cisgiordania, ho potuto vedere e toccare con mano la negazione totale di ogni diritto umano. No al diritto al lavoro, non è consentito il diritto al lavoro, non è consentito il diritto alla salute, non è consentito proprio la vita stessa ai palestinesi. E la dottoressa Francesca Albanese, nelle relazioni che ha scritto, lo dice chiaramente, così come la detenzione amministrativa arbitraria, la privazione della libertà discrezionale che viene fatta dall'esercito terrorista israeliano. Francesca Albanese ha scritto diversi importantissimi rapporti, ma questo ha fatto maggiore scalpore, l'impatto delle sanzioni USA sulla relatrice ONU relativamente al suo rapporto da economia dell'occupazione, economia del genocidio. Perché questo? Perché? Perché in questo rapporto importantissimo ha messo nero su bianco quelle che sono le aziende, le multinazionali, le banche che guadagnano sul genocidio, perché è stato scritto e detto chiaramente che il genocidio è un business, è un business, c'è dietro un business della morte, c'è un guadagno sulla morte, su persone che vengono bruciate vive, su bambini che vengono ammazzati, su esseri umani che vengono fatti saltare in aria. E questo ovviamente non è accettato, perché si è andato a toccare l'aspetto del guadagno, del profitto, e questo ha messo sicuramente paura. Ed è quello che dichiarava, e mi permetto di ricordarlo in questa sede istituzionale, Julian Assange, di cui sono andata a Londra a seguire il processo, di cui è stato 14 anni privato della libertà personale per avere rivelato quello che già Francesca Albanese scrive nei rapporti, che dietro alle guerre non c'è una volontà di portare democrazia, non c'è una volontà di una guerra di successo arrivare alla pace, ma c'è la volontà che la guerra sia duratura, che sia infinita, perché altrimenti si interromperebbe questo guadagno che queste aziende hanno, in questo caso, ma non solo, sulle armi. Quindi hanno guadagnato sul genocidio, hanno guadagnato sull'occupazione coloniale che deve continuare. Ci sono... Perseguitata nel corso della sua carriera per il ruolo scomodo che ha ricoperto da quando è relatrice speciale, non possiamo dimenticare che già nel 2023 un gruppo di 18 membri del Congresso USA si era espresso a favore della sostituzione di Francesca Albanese per aver mostrato persistenti pregiudizi contro Israele. Nell'aprile dello stesso anno, Amnesty International pubblicò una lettera a suo sostegno a seguito della decisione dell'allora ministro degli esteri Giulio Terzi di Fratelli d'Italia, che aveva chiesto al ministro Tajani di destituire la dottoressa Albanese dal suo ruolo. Al ministro Terzi si era aggiunto il ministro israeliano per gli affari della diaspora e la lotta all'antisemitismo, Amichai, che aveva inviato una dura lettera agli stessi funzionari delle Nazioni Unite invitandoli a licenziare la dottoressa Albanese a causa dei commenti da lei fatti in cui affermava che Israele non può rivendicare il diritto a difendersi quando si tratta di persone che opprime e di cui colonizza le terre. E con questa nostra conclusione la nostra trasmissione finisce, ma riteniamo che l'argomento di cui abbiamo trattato oggi sia di fondamentale importanza per capire le connivenze e le logiche mafiose che sottintendono all'azione genocidaria del governo israeliano e torneremo presto su questo argomento nelle prossime puntate. Con questo annuncio vi salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì 1 ottobre, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Inshallah. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.